Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltretti in regia e un grande ospite con cui ci eravamo dati un appuntamento telefonico, ma è un uomo di parola, Charlie Recalcati, eccolo qui con me. Ciao, buongiorno Charlie. A tutti. Ciao. Grazie a tutti. Costian Peterson, buongiorno. Amici sportivi, buongiorno a tutti. Ti ho portato Charlie, sei contento? Grandissimo, Charlie, un saluto, un abbraccio. Ciao, dai, un abbraccio. Come vedi Varese? Io? Certo, tu. Charlie ha fatto l'anno scorso, bisogna dire, uno dei suoi capolavori per me, perché loro all'inizio dell'anno, ti ricordi, non promettevano tanto bene le portate proprio ai playoff. Quindi Charlie ormai è diventato il maestro di fare molto con poco, pochi soldi, magari giocatori non quotati, però che hanno un'identità, un gioco, perché il suo gioco è quello di, diciamo, Romeo Sacchetti. Quelli sono i due giochi che forse sono più piacevole all'occhio, 600 all'ora, e se uno è libero deve tirare, non rinunciare mai a un buon tiro, e con questo ha portato a casa i risultati. A me piace sempre vedere Sassari giocare con Meo e Varese giocare con Charlie. Ti rivedi Charlie? Mi rivedo, sì, sinceramente vorrei vederli un pochino più spigliati i miei giocatori, soprattutto nel prendersi tiri. Ragazzi, Coppa Italia di ieri sera, abbiamo la semifinale che volevamo tutti, Milano che batte Bologna, Milano che gioca onestamente secondo me un grande primo tempo, che poi si complica la vita, che poi riesce ad uscirne, Siena che batte Sassari, ma grossi dubbi in fondo non ce n'erano, io sinceramente la vedo abbastanza chiusa, non so voi, coach. Well, innanzitutto hai fatto una descrizione perfetta. Milano ha fatto un primo tempo 31-14 più 17 con 6 su 6 da 3, cioè strepitoso, Bremer veramente maestro in campo, e poi quando vai sopra troppo presto, e Charlie sa questo, c'è la tendenza umana di rilassarsi un attimo, a dire che ho un po' di cuscino, ce l'ho, okay, un po' di margine per sbagliare qualcosa, e perde quella frazione di energia che ci vuole per mantenere questo qui. E poi ovviamente Bologna è rientrata, però alla fine è una settimana da oggi, nessuno ricorda che Milano ha avuto una flessione, ricordo solamente che Milano ha vinto la partita che va in semifinale contro Siena, che anche Siena ha fatto quello che doveva fare per vincere, i 10 punti non neanche per 11, okay? Sì. Quindi amministrazione perfetta. Charlie? Ma io voglio fare una domanda tecnica, sì. Ma può un giocatore come Bremer, che non è una superstar, cambiare così tanto Milano? Sì. Perché? Sì, perché è il tipo di giocatore di cui Milano aveva bisogno e di cui Milano ha bisogno. Credo che la lacuna di Milano dall'inizio della stagione era quella di non avere una guardia come lui, una guardia che potesse giocare non solamente facendo dei punti, ma anche aiutando il playmaker nel costruire gioco, cosa che sicuramente non è Nicolas. Nicolas può fare canestro, però non è sicuramente quello che fa. E poi è il giocatore che permette all'allenatore, se vuole mantenere il quintetto con due guardie piccole, di poterlo fare, mentre prima era costretto, nel momento in cui doveva cambiare una delle due guardie, ad alzare il quintetto, e magari la partita non era necessario che venisse fatta. Adesso voglio versare un po' di sale sulle ferite. C'è la Coppa Italia, ma c'è anche la Coppa del Re in Spagna, come sai bene, coach. Noi di Sport Italia la state facendo vedere. Trasmettendo, ieri abbiamo fatto io ho fatto la partita ieri sera con Nicolò Trigari, sì, di Barcellona, che ha fatto una dimostrazione di forza notevole, impianto San Jordi pieno. Bravissimo, impianto San Jordi pieno, davanti alla TV 500.000 di persone. Simone Pianigiani, ieri, una delle cose che ha detto, la Coppa è una cosa diversa, soprattutto all'esordio si gioca nel silenzio, ma davanti a tutti gli addetti ai lavori. Poi, purtroppo ha ragione, forse, cioè, sì, è chiaro, Torino super per organizzazione, Isozaki, un impianto stupendo, avrei voluto vedere l'Italia giocare per esempio il Mondiale, Olimpiade o qualcosa lì, che bisogna un impianto stupendo, organizzazione Torino non si può dire, però forse ci vuole, come nel passato nella Coppa Italia, una situazione in cui la squadra di casa partecipa anche, esempio io, Virtus Bologna ospite la Coppa Italia, loro sono una delle otto squadre, Pesaro ospita la Coppa Italia, loro sono una delle otto squadre. Milano ospita la Coppa Italia, si tiene al Forum di Assago per avere tifo, interesse pubblico, eccetera. Forse ci vuole questa qui, senza voler criticare Torino, per l'amore di cielo. Cosa ne pensi, Charlie? Beh, io penso che sia un'analisi perfetta. Chiaramente, al di là del fatto del Palazzo dello Sport di Torino, che è molto ma molto bello, e che Torino è anche una piazza che ha tradizione, anche passione e voglia di pallacanestro, però è evidente che non è come avere un'organizzazione di questo tipo con una squadra che partecipa con i propri tifosi. Vuol dire avere garantito innanzitutto una partecipazione di 3.000-4.000 spettatori, ai quali poi si aggiungono gli spettatori e i tifosi delle altre squadre. Sì, ieri 4.625 spettatori. I dati di ascolto televisivi non ce li abbiamo, ma non sono certo questo mezzo milione di persone. Ma sai, questo problema credo che sia un problema non legato alla Coppa Italia, ma poi un problema legato al momento della nostra pallacanestro, dove sicuramente dal punto di vista televisivo non abbiamo un grande appeal e probabilmente facciamo anche molto poco per promuoverci. Coach, prima di salutarti voglio farti sentire una cosa. Sai bene che cos'è, eh? No, non ho più pala di idea. Quando ti arriva il tweet sul cellulare, io ti controllo. Hai scritto oggi: la donna milanese quando si mette in tiro è la più chic del mondo. Straniere che arrivano qua, quando capiscono come si fa, sono chic. Esatto. Confermi? Ah sì, l'ho scritto io perché lo vedo così. La donna milanese veramente è una lezione per tutti in quel campo. Lì hanno una chicca addosso che è veramente, come dice Sandro Gamma, non si compra al supermercato. E come dice Charlie Recalcati invece? No, è vero, credo che sia legata alla tradizione milanese. Io sinceramente da ragazzino uno dei migliori passatempi, soprattutto durante l'inverno, era andare per le strade del centro a vedere tutte le signore e signorine anche, che facevano sfoggio della loro eleganza. Vabbè, adesso per salutare Cosa, guarda che gli chiediamo il pronostico, la cosa che gli piace di più al mondo. Sicuramente lo indovina. Sicuramente. Ieri ho indovinato 2 su 2, oggi non lo so. Lo chiedo anche agli ascoltatori: 800 24 00 24, numero verde. Allora, stasera partiamo dal facile: chi vince stasera? Siviglia Pesaro o Umana Venezia? Bennett Cantù o Sidiga Savellino? Sulla Gazzetta ho pronosticato Cantù e Venezia come sorpresa, ok, contro Pesaro. So di andare contro il pronostico lì con Venezia, però bisogna pronosticare sempre una sorpresa. Fantastico. Ho scelto loro tutto lì, però ieri ho indovinato tutti e due, però oggi non credo. Milano Siena? Sì. Milano-Siena, avevo detto anche sulla Gazzetta che Siena avrebbe vinto. Finale Siena contro? Cantù. Chi vince? Siena. Ti piacciono le cose facili, coach? Tra una settimana ne parliamo, Amici sportivi, ciao, saluti. Ciao Dan. Tra una settimana ne parliamo. Palla spicchi. Allora, Charlie Recalcati, sei d'accordo col pronostico del coach, cui piace vincere facile? Allora, sono d'accordo con Dan, tranne che una cosa, però capisco perché Dan ha pronosticato Venezia piuttosto che la Scavolini, perché so che è molto amico del presidente Brugnaro. E no, quindi non poteva esimersi dal dare questo. Però direi che come percorso verso la finale, poi come esito della finale, chiaro. Vuol dire non andare contro pronostico, vuol dire mantenere fede a quello che è un pochino il pronostico generale. È vero anche che probabilmente avremo partite un pochino più intense, più equilibrate rispetto a quello che succedeva in passato, ma questo vale anche per il campionato. Ma dimmi una cosa, ma Venezia è davvero così sorprendente o è una squadra forte? Perché sinceramente il campionato di Venezia è inspiegabile, no? Chiamata, venite qui voi il giorno prima di cominciare il campionato con una squadra che era già formata, che doveva fare la Lega 2, che è vero era competitiva, eccetera. Però sinceramente da lì a fare questo tipo di stagione c'è una grande distanza. e sono molto bravi, però è anche vero che è una squadra forte. È una squadra forte, equilibrata, che ha delle individualità capaci di incidere poi nell'esito della partita a turno e di volta in volta, ma soprattutto sono una squadra. È una squadra appunto che era stata costruita e a cui sono stati aggiunti dei giocatori che hanno dato effettivamente quel qualcosa in più per poter partecipare alla Serie A. Adesso parlami della tua di squadra. Ma la mia è una squadra, come diceva Dan, dove innanzitutto dobbiamo combattere, cerchiamo di salvaguardare il futuro della società, e quindi questo è il punto di partenza, dove non si fa il passo più lungo della gamba e dove chiaramente in quest'ottica qua abbiamo cercato di allestire una squadra. E questo mi sembra il valore supremo, giusto? Sì, ma perché questo è, insomma, Varese ha una storia, Varese chiaramente ha dei punti fermi. Per chi è nato a Varese, il punto fermo è Sacromonte, è il lago di Varese e poi la pallacanestro. Però Sacromonte e il lago di Varese restano lì, la pallacanestro speriamo, ma sono sicuro che ci sarà ancora per tanto tempo, però non è così scontata come tutti pensano. E in quest'ottica qua si innesta una gestione di una squadra che chiaramente è più lunga rispetto a quella dell'anno scorso per avere maggiori rotazioni. Abbiamo perso qualcosa dal punto di vista del talento individuale, sì, volutamente, però direi che pur essendo in questo momento fuori dalla Coppa Italia e in questo momento fuori dai playoff, siamo abbastanza in linea con quello che è il potenziale della squadra. Possiamo fare qualcosina di più, molte volte quello che tu fai dipende non solamente da quello che tu effettivamente fai, sì, ma da ciò che fanno gli avversari, e quindi abbiamo un ulteriore passo da fare in avanti, che è quella di darci un'anima comune. Adesso siamo, sì, ancora un gruppo di persone che lavorano assieme con differenti anime. Dobbiamo fare il passo successivo, è quello di avere un'anima, e se riusciamo a fare questo sono convinto che andremo ai playoff anche quest'anno. Senti, ma in quest'anima comune ci metti anche il pubblico di Varese? Ma tutti, perché questo è un discorso generale, non solamente il pubblico, ci metto anche la stampa, ci metto anche la società. Quando una squadra si vuole ritenere tale, devono avere degli obiettivi all'unisono e soprattutto ognuno deve fare la propria parte. La cosa più difficile nel creare le situazioni e le squadre nel vero senso della parola è il termine accettazione, perché è importante innanzitutto riconoscersi i propri limiti, ma soprattutto riconoscere i limiti di chi lavora con te e di chi è al tuo fianco. Se li riconosci e li accetti, soprattutto ti metti nella condizione di poterlo aiutare, perché un giorno lui probabilmente lo farà per te. Questo vale poi per i mini gruppi che ci sono, certo, all'interno del gruppo, certo, allargato. Certo. Io ho già un sacco di messaggi per te e due ascoltatori in linea. C'è chi scrive: tranquilli, ci pensiamo noi canturini a riempire il palazzo di Torino, e vabbè. C'è anche chi ti vuole chiedere, ti faccio due domande in una e poi passiamo agli ascoltatori: come si spiega il calo di Ganeto, giovane dal quale si aspettava di più? Ancora una volta i giovani steccano, scrive Franco. Aggiungo, vorrei chiedere a Corso Recalcati dove hanno sbagliato gente come Art o l'ex Cantù Lighty. Solo questione di sistema di gioco? Ma partiamo dalla fine. Non dobbiamo dimenticare che sono due che sono usciti dal college. Sì. E quindi quando prendi giocatori così giovani devi sapere, devi mettere in preventivo che senz'altro qualche rischio lo prendi. Chiaramente non voglio parlare di Lighty perché non è il giocatore che ho avuto io, posso parlare di Justin. Il motivo per cui l'abbiamo voluto, io in prima persona l'ho voluto, è perché aveva dimostrato al college di essere un giocatore capace di risolvere molte situazioni di difficoltà dal punto di vista offensivo della sua squadra, anche prendendo iniziative individuali. Poi quando è arrivato probabilmente non si è trovato a suo agio e non ha confermato questa sua caratteristica, quindi la difficoltà maggiore, al di là del fatto che fosse giovane, che arrivasse dal college, era proprio quella di non riuscire a incidere in alcuni momenti della partita quando la squadra aveva bisogno, magari con qualche giocata individuale che sicuramente faceva parte del suo repertorio. Per quanto riguarda Gabriele, devo dire che ha giocato molto bene all'inizio, quando uscendo dalla panchina ha segnato molte partite, e non nel senso di fare canestro, ma proprio ha segnato il rendimento della partita, perché io ritenevo e ritengo ancora adesso che sia uno dei pochi giocatori italiani capace di interpretare più ruoli con la statura che ha, andando dalla guardia fino all'ala forte. Poi ha avuto qualche problema fisico, sta convivendo tuttora con una pubalgia, la cosa non è sicuramente una cosa semplice. La squadra nel frattempo è andata avanti, non dico che si sono create delle gerarchie, però sicuramente c'è stato un momento, ad esempio, dove lui era in difficoltà e Reati si è fatto preferire a lui, e quindi c'è stato spazio per Davide. Adesso sono in difficoltà obiettivamente tutte e due, io ho bisogno che possibilmente tutte e due, almeno uno dei due, dia una grossa mano come hanno fatto in passato. Magari che i due ne facciano uno per il momento e poi vediamo. Ascoltatore, che sono tanti, Alessandro, provincia di Como, ogni tanto chiama anche tuo amico che magari non vede da 30 anni. Vecchi compagni di scuola, di solito succedeva così qua da voi. Non so se Alessandro è uno di questi. Buongiorno. Buongiorno, un caloroso saluto a Charlie, che grandi ricordi a Cantù ha lasciato. Ma va, veramente? Grandissimi. Io volevo farvi una domanda. Sì. Stasera Tinchieri fa esordire Perkins. Sì. Secondo voi è il secondo del Cinciarini o può rubargli il posto? Questa è una gran bella domanda. Questa che avrei fatto io stesso a Charlie Gatti, perché la collocazione di Perkins, che è un giocatore importante, pesante, di personalità, in un meccanismo perfetto come Cantù, mi sembra un bel tema. Beh, è un tema interessante, però bisogna partire dal presupposto di un giocatore che non... Che non gioca dal marzo scorso, quindi un giocatore che ha avuto anche un grosso problema fisico che sta recuperando, probabilmente adesso l'ha recuperato, ma non è ancora completamente recuperato per poter giocare dal punto di vista agonistico, e quindi credo che in partenza sarà senz'altro l'alternativa di Cinciarini. Poi credo che nei progetti di Cantù sia che con il tempo possa diventare il playmaker della squadra. Fabio, provincia di Treviso. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno coach, complimenti per la sua carriera innanzitutto, per aver fatto sognare con la nazionale, non solo, anche se sono un trevigiano ovviamente. E volevo chiederle, visto che ha parlato un po' di crisi del movimento cestistico dal punto di vista degli spettatori, degli stadi, dei palazzetti, anche probabilmente di più in televisione, lei pensa che ci sia e sì chi possa essere il nuovo Gianmarco Pozzecco, che secondo me può essere il collettore di spettatori, sia a livello di singolo club, ma sia anche a livello di nazionale. Grazie. A lei. Ma noi abbiamo necessità di avere personaggi, ed è un argomento che è stato toccato dal radioascoltatore reale. Dopo Gianmarco e direi dopo Carlton Myers non abbiamo grandi personaggi che attirano l'attenzione, se non Danilo Gallinari. Credo che Danilo possa essere e potrà essere per il nostro movimento, per la nostra pallacanestro, ciò che è stato Gianmarco, ciò che è stato Carlton in passato. Il problema chiaramente è che Danilo bisogna vederlo alla TV. Il problema è che Danilo bisogna vederlo alla TV, e non c'è la possibilità di avere una frequentazione continua, perché è evidente che nel momento in cui uno è personaggio, il pubblico, la gente lo vuole toccare, lo vuole vedere, lo vuole frequentare, e quindi questo è un grosso problema. Però è reale perché a noi manca, e dal punto di vista televisivo, dal punto di vista della promozione, non abbiamo personaggi di questo tipo. Non sto parlando del valore del giocatore, che chiaramente non c'è neanche bisogno di parlarne per quanto riguarda Gianmarco Carlton, però la realtà è che dal punto di vista del personaggio, da questo punto di vista qui, siamo veramente carenti. Palla spicchi. torniamo insieme, sempre con me Charlie Recalcati, coach della Cimberio Varese. Roberto da Rimini invece è in linea. Salve Roberto, sì. Ciao. Salve, buonasera a tutti. Buongiorno. Allora, intanto volevo fare una precisazione, che Carlton, siccome io sono andato a scuola media, alle medie con Carlton, Myers era già un personaggio all'epoca, quindi era impossibile che non lo diventasse poi. E poi una domanda, ma voi escludete a priori Pesaro dai pronostici? Per cosa? Per la Coppa Italia? Se non altro per arrivare in finale, sì, per la Coppa Italia. Bah, esclude a priori no, anche perché Pesaro mi sembra la squadra più talentosa. L'abbiamo messa in semifinale con Cantù, no? Abbiamo messo in semifinale con Cantù dicendo che vince Cantù. Cantù è più forte, però Pesaro ha un talento per cui non può essere sottovalutato nemmeno da Siena, e lo sa, l'ha dimostrato il campo. È la squadra più pazza e talentuosa, no, Charlie? Sì, ma è chiaro che poi dopo i pronostici devono essere fatti sulla considerazione del potenziale, se una squadra è più o meno forte dell'altra. Poi dopo sulla partita secca ci può stare tutto, quindi credo che... Nel momento in cui ti viene chiesto di dire 1-2x, lo devi fare, e poi dopo non vuol dire che chi viene escluso dal pronostico non abbia chance assolutamente. Certo, non una squadra facilissima da gestire, bravo Dal Monte da questo punto di vista. Sì, decisamente. Perché decisamente. È una chimica di talenti. È una chimica perché ci sono talenti che hanno fatto molto bene. Io credo che White l'anno scorso sia stato uno dei migliori giocatori del campionato italiano. Sì, sicuro. E molte volte lo è perché ha trovato l'ambiente giusto, la squadra giusta, il tipo di gioco giusto. Il riuscire ad ottenere comunque che rimanga un giocatore che fa la differenza, pur cambiando allenatore, cambiando compagni, cambiando realtà, vuol dire che Pesaro sta lavorando molto bene. E Jumaine Jones è un giocatore che chiaramente è non facile dal punto di vista tattico, che però vedo che si sta sacrificando, perché quando non riesce a produrre punti il suo lavoro a rimbalzo comunque lo dà sempre, e quindi vuol dire essere coinvolto. Sì, no, io l'ho detto molte volte, visto che ho qualche annetto, mi ricorda un po' un ritorno alle origini, mi ricorda la Pesaro dei primi anni 80, ti ricordi la Kicianovic, Silvester, Zampolini, magnifico, era una squadra piena di talento. Piena di talento, che doveva... Piero Scalzi che provava a fare i suoi magheggi, mi ricordo un po' questo. Sì, sì, no, ma sono le squadre, perché ti dirò anche che anche Daniel non è sicuramente, voglio dire, un giocatore facilissimo, perché ma non facilissimo vuol dire nel termine positivo, perché è un vincente, perché è uno che vuole giocare sempre, che vuole giocare con grande energia, che vorrebbe sempre vincere, vorrebbe sempre giocare. Pensi di aver avuto un po' di ragione su di lui? Ma guarda, io penso di aver avuto ragione su tante cose, cioè, perché chiami Hackett? Perché? A cosa ti serve? Quando aveva 18 anni, 19 anni, 20 anni, e il suo allenatore del college mi diceva: ma scusa, ma perché hai bisogno di lui? Le Olimpiadi, i campionati europei non sono tra 2-3 anni, cosa ti serve adesso? E non riusciva a capire la logica del nostro movimento, che aveva bisogno che un giocatore giovane cominciasse a capire cos'era la nazionale, e soprattutto rientrare nella nostra pallacanestro, no? Ma io ti dicevo il discorso sono convinto di aver avuto ragione, ma purtroppo questo qui è un vantaggio che hanno solamente le persone che hanno la mia età, quindi non ci sono grandi vantaggi ad avere la mia età, se non il fatto di dire: è passato tanto tempo, e quando passa tanto tempo poi dopo ti dicono che avevi ragione su tante cose. Hai visto. Però. Pietro Guerrini da Tutto Sport, padrone di casa lì alle Final 8 di Coppa Italia. Piero, ciao. Ciao a tutti. Ciao Piero. Stai attento che arriva l'invasione dei canturini, me l'hanno scritto. Palazzetto pieno oggi. Speriamo. Sarebbe un segnale positivo per tutta la pallacanestro, ma anche un bel segnale per Torino. Ieri era discretamente affollato il palazzo, però soprattutto di bambini e ragazzini delle società locali. Questo è sicuramente positivo perché dimostra che Torino è viva e ama il basket e ci sono tanti praticanti. Sotto un altro aspetto, forse è il segnale che la Final Eight è un po' sovradimensionata rispetto alle possibilità del basket italiano attuale. Piuttosto Torino ha un sacco di praticanti ma non ha una squadra al momento, Charlie? Sì, questo è un vero peccato perché, come dicevamo prima, è comunque una città che ha passione e competenza e ha anche tradizione, e quindi oltre ad avere gli impianti che non ci sono in altre parti d'Italia, e quindi è sicuramente un vero peccato. Se posso dare una testimonianza, da Cantù arriveranno anche i bambini del minibasket, quindi... Il tifoso canturino che ha scritto prima non ha tutti i torti, in effetti ci sarà una grande invasione. Piero, come hai visto Milano? Alti e bassi, come più alti o più bassi? Ma di positivo c'è che sicuramente J.R. Bremer incide, e incide tantissimo. Io non so se sia semplicemente per una questione di leadership, per una questione di rotazioni allungate. Francamente, da quando è arrivato Bremer, Milano ha una sua fisionomia meglio delineata e molti giocatori rendono di più. Dopodiché è sicuro che l'assenza di Poeta abbia pesato di più su Bologna di quanto non abbia inciso quella di Mancinelli e le condizioni precarie di Rocca, perché Milano ha rotazioni più lunghe e invece Poeta è l'uomo chiave del gioco di Bologna. Eppure Bologna è andata vicino, ha recuperato, anche se non mi ha mai dato l'impressione di poter passare davvero avanti nonostante il piccolo sorpasso e di vincere la partita. La giocata chiave, secondo me, anzi un paio di giocate chiavi le ha fatte Melli, e questo deve essere un segnale importante, deve essere inteso come un segnale importante per la pallacanestro italiana, e anche il motivo che dovrebbe spingere gli allenatori, magari non quelli dei grandi club ma dei piccoli club, a far giocare di più gli italiani, cioè a scommettere di più. Piero, grazie. Un grazie abbraccio. A voi. Ciao, grazie, Piero. Grazie a Piero Guerini. Sai che, Charlie, volevo farti sentire una cosa adesso. Sai che Gianmaria Vacerca si è messo a fare il cuoco? Sapevi? No, avevo sentito qualcosa. Avevi sentito qualcosa? Sai, ogni settimana ci presenta una partita partendo da un piatto? Da quello che si può mangiare lì. Sentiamo cosa da raccontarci sta settimana. Basket Chef. Vedi le Final Eight e poi muori, sdraiato su un qualche tavolo di una vecchia osteria che ti sopporta fino a tardi, in un cimitero di bottiglie vuote, 3 sere sulle 4 disponibili e guai a ripetere lo stesso posto. Le ho disputate 4 volte su 4, e scusate se è poco con squadre che devono salvare la pelle a fine stagione, ed ogni volta queste benedette finali si sono trasformate in un viaggio nel gusto, alla ricerca di sapori nuovi e vitigni ritrovati, con la buona compagnia di gente che non le manda a dire e che non si vergogna a tornare a casa a carponi, se dovesse capitare, dopo aver condiviso nuove idee per questo gioco del basket. A Bologna, il primo anno, c'erano la gramigna con la salsiccia, i maxi schermi con le gare del college basket, damigiani di San Giovese e quintali di mascarpone. C'erano Sabatini, Corbelli e Minucci che volevano Drake Dinner. Lo prese Minucci, stizzito dalla sconfitta con Pesaro, che costò il posto a McLeod. Il secondo anno c'erano le tagliatelle al ragù, le botte di Lambrusco, i soliti maxi schermi e un dio greco che fece furore contro Treviso. Costas Vasiliadis, oggi impazzi in Eurolega. Allora ci avvicinò a semifinali sfuggite per un solo canestro. Ad Avellino c'erano i paccheri amalgamati, la mozzarella di bufala, l'aglianico stordente e l'outre delle calzature con i prodotti tipici delle Marche in mezzo a tacchi e sneakers. Epocale. Arrivammo una settimana prima e tornammo una settimana dopo, con la lacrimuccia. Non saremmo mai andati via dalle Ripigna e da quella fantastica buona gente del sud. Infine Torino, la piccola Parigi che ospita le finali anche quest'anno. Piero Guerrini, sublime penna di Tutto Sport, ci ha regalato una guida imperdibile, di confine, tra blog e letteratura. Ti viene fame dopo 3 righe e non vogliamo anticiparvi nulla. L'anno scorso feci indigestione di vitello tonnato fatto come una volta, insalata russa, Castelmagno solo o ben accompagnato dai gnocchi, e festeggiare la vittoria contro la Virtus con grandi bottiglie, Nebbiolo, Barolo o Timorasso. Ma questo giro passo. È ora di mettersi a dieta, ma dispiacerà solo a quella buona compagnia che è sempre la stessa, obbligata ora a trovare un rimpiazzo e inventarsi un nuovo cognome per le prenotazioni. Il mio era Pavese, come Cesare. E allora mamma, butta la pasta! Capito, Charlie? No, capito, bravissimo, bravissimo. E ti devo dire che mentre lo ascoltavo mi rafforzavo in una mia convinzione. Dimmela. La mia convinzione è che ci siano troppe squadre. nel nostro movimento. E ho letto questa mattina il presidente Renzi che dice che bisogna ridurre gli emolumenti. Per ridurre gli emolumenti bisogna aumentare la concorrenza. Aumentare la concorrenza vuol dire sicuramente che qualcuno rimane senza lavoro. Sì. E bisogna essere capaci di riciclarsi. E credo che Vacirca ci abbia dimostrato che nel momento in cui non lavora come general manager sta lavorando molto bene per voi e per la radio. Chiaramente è una battuta, no? È una cosa un pochino estrema, però era più che altro una riflessione di carattere generale sul nostro movimento, dove anziché aumentare il numero delle squadre abbiamo bisogno magari di ridurle per creare appunto concorrenza. Questo magari a scapito di qualche posto di lavoro e di qualche allenatore, qualche giocatore, qualche general manager che dovrà riciclarsi e magari fare dell'altro. A parte che per gli allenatori abbiamo bisogno di tanti allenatori bravi, cioè, tu dici, nei settori giovanili. Sì. E quindi sono partito chiaramente da uno scherzo, no? Chiaro, credo che Vacirca insomma me lo possa perdonare, per arrivare a dire che in questo momento abbiamo bisogno veramente tutti di stringere un po' la cinghia, e soprattutto dobbiamo dare certezze a chi lavora. In questo momento ci sono tanti allenatori, tanti giocatori che stanno lavorando senza percepire lo stipendio, e non si sa se lo percepiranno, e non si sa se gli anni prossimi, certo, gli verrà saldato quanto dovuto. Io aggiungo, ci sono squadre che perdono partite contro giocatori che non prendono lo stipendio. Noi abbiamo quest'anno nel quarto campionato, quindi nel campionato di, chiamiamo, B dilettanti, sì, abbiamo perso 13 società. Sì. Dovevano partire 64 società, ne sono partite solo 51, e sembra il male minore, no? Perché dici bisogna ridurre, diventa una selezione naturale, dimenticandosi che tutte le persone che hanno lavorato per quelle 13 società, per quelle 13 squadre lo scorso anno, general manager, giocatori, allenatori, non hanno percepito probabilmente quanto dovevano percepire. E questo è il grande guaio. Dobbiamo metterci in una condizione invece magari di garantire, non tantissimo, però di poter garantire a tutti, di poter lavorare e di poter percepire quanto si guadagna. Palla spicchi. Allora, torniamo a fare con Charlie Recalcati questo discorso che mi interessa molto, poi sentiamo Diego da Milano. Riforma dei campionati, lo sappiamo, l'anno prossimo 18, poi si passerà a 16. Chi parteciperà a questi campionati a me non è chiaro. Perché non mi è chiaro se squadre che sono dichiaratamente in difficoltà verranno salvate, come non lo so. Pianigiani ha detto un'altra cosa: gli italiani prendano la loro valigia e vadano a giocare all'estero perché c'è bisogno di questo. Mettiamo insieme questi due discorsi, Charlie? Sì, ma i nostri giocatori li vogliono all'estero. I nostri giocatori entrano in una logica di mercato. Se non li vogliono in Spagna, magari li vogliono in Francia, magari li vogliono in Lussemburgo, magari li vogliono in Cina. Allora, io credo che il discorso sia un pochino più ampio. Ed è un discorso che va allacciato a ciò che è stato fatto in questi ultimi anni in termini positivi, con un tentativo positivo di imporre l'iscrizione al referto dei giocatori italiani nei campionati professionistici e dei giocatori giovani nei campionati dilettantistici. È stato un tentativo che doveva, a mio avviso, doveva essere fatto, che si sapeva che avrebbe sicuramente prodotto un alzamento dei costi, che quindi si andava a chiedere alle società, e dobbiamo parlare di tutte le società, perché noi tante volte ci limitiamo, guardiamo solamente la testa dell'iceberg, guardiamo al campionato di Serie A e non ci accorgiamo invece di quello che c'è sotto. Invece bisogna fare un discorso un pochino più organico, che investe tutto il movimento e soprattutto tutti i campionati che vanno dai campionati regionali fino alla Serie A. E quindi è stato fatto questo tentativo, sperando di poter ottenere nuovi giocatori, più giocatori e giocatori più bravi, giovani e meno giovani. Adesso siamo in una fase, secondo me, successiva. Adesso si comincia a parlare di incentivazione. Tieni presente che nel 2004 presentai un progetto per incentivare l'utilizzo dei giocatori italiani che non venne preso in considerazione perché forse venne ritenuto, insomma, prematuro. Sì. Adesso si comincia a parlare di incentivazione, in un momento in cui bisognerebbe andare addirittura oltre, perché adesso non bisogna più parlare di giocatori italiani e di giocatori stranieri, ma dobbiamo attenerci a quelle che sono le normative europee, quindi dobbiamo cominciare a pensare di parlare di giocatori formati in Italia e non formati in Italia, e quella dovrebbe essere la distinzione. E proprio per questo motivo questo è il momento in cui si deve passare, parlare di liberalizzazione oggi, che c'è il governo Monti che, insomma, sta facendo un cavallo di battaglia, uno dei cavalli di battaglia, insomma, sembra troppo facile, sembra voler copiare, però la realtà è questa. Credo che sia arrivato il momento in cui effettivamente nei campionati professionistici bisogna liberalizzare l'utilizzo dei giocatori, dei passaporti, e nei campionati minori bisogna liberalizzare l'utilizzo dei giocatori under o dei giocatori over. È chiaro che comunque bisogna preoccuparsi però di fare in modo che ci sia un occhio di riguardo nei nostri giocatori, soprattutto in funzione di nazionale, dei nostri giocatori giovani. E l'unico modo è quello di incentivarne l'utilizzo. Certo. Incentivarne l'utilizzo in modo da poter dire alle società che possano decidere in modo autonomo di utilizzare i giocatori italiani nel campionato di Serie A e i giocatori under, giovani, nei campionati minori. Una volta deciso questo, devono sapere che il loro modo di programmare la stagione, di gestire la loro stagione, verrà premiato, e verrà premiato con un incentivo in denaro. Certo. L'unica logica che ci può essere. Non è difficile creare un fondo. Perché è un fondo al quale possono partecipare tutte le squadre che tesserano giocatori non formati in Italia o di giocatori over nei campionati minori. È evidente che è un fondo al quale devono partecipare tutti, devono partecipare le leghe, la Lega Serie A, la Lega 2, sì, però la Lega Nazionale e in parte anche la Federazione. Il discorso è che comunque la situazione così com'è non ha portato a nessun risultato. Quindi... No, bisogna essere molto onesti, ma sta parlando uno che la materia l'ha dibattuta, direi che l'ha anche propiziata, e ti garantisco che nel momento in cui si era fatto un passo del genere lo si era fatto nell'intento di poter produrre qualcosa. Però bisogna avere anche l'onestà intellettuale e la capacità professionale a un certo momento di dire: adesso facciamo una verifica, che cosa è stato fatto, quali sono stati i risultati, quanto è costato, e a quel punto dobbiamo essere onesti a dire che rispetto a quanto è costato non abbiamo prodotto. Sicuro. Cambiamo, voltiamo pagina. Credo che i palliativi, il modificare qualcosa, a me non piace neanche il discorso, ad esempio, sempre si stia andando verso l'anno prossimo, verso i 5 giocatori di qualsiasi passaporto, che è una cosa che potrei anche sposare, perché uno dei problemi che abbiamo nel nostro campionato, abbiamo visto anche l'anno scorso, è il fatto che ci siano tanti giocatori americani che facilmente prendono passaporto macedone. Piuttosto che bulgaro, piuttosto che sloveno, eccetera. E allora sembrava che con questo fatto di dire mettiamo 5 giocatori stranieri comunque indipendentemente dal passaporto andavi a risolvere il problema dei passaporti degli americani e europei. Però poi dopo hai visto che non era così. No, poi dopo ricadiamo nell'errore, perché nel momento in cui diamo l'alternativa che ai 5 giocatori comunque sia il passaporto c'è la possibilità di averne 3 di extra europei e 4 europei, vuol dire che nei 4 europei ricadiamo nella possibilità dei giocatori americani che possono prendere. Allora, per ovviare a tutta questa confusione, sarebbe una cosa molto semplice parlare semplicemente di giocatori formati in Italia e non formati in Italia. Sì. E l'unica poi dopo incentivare l'utilizzo dei giocatori che interessano a noi, che sono i giocatori italiani elegibili per la nazionale, e incentivare nei campionati sotto l'utilizzo dei giocatori under. Senti, torna a trovarci così ne riparliamo quando volete. È un piacere, sempre un piacere enorme. Grazie a Charlie Recalcati, grazie a voi. Piantanini in redazione, Roberto Scaltretti in regia. Mi scuso con Diego da Milano, ma siamo davvero in chiusura. Torniamo domani pomeriggio con lo sport alle 5. Buona giornata.